e che resistono anche all'acqua, sono proprio inchiostri a pigmento, per cui finché è possibile è meglio mettere gli originali. Poi quando non si troveranno più gli originali, allora puoi comprare quelle ricariche di marche generiche, purché sia adatto alla stampante, e ti dirò che stampa bene. Poi adesso sono belle, sono tutt'uno, fa stampante, scanner e fotocopiatrice, e le fotocopie te le fa anche senza computer, basta che tu l'accendi, gli metti il foglio che vuoi fotocopiare, premi un tasto e ti esce la fotocopia, niente di più facile, e costano poco, me le abbiamo pagate tipo 39 euro, 49 euro, una cosa del genere, e fanno tutto ormai, tutto. Non c'è più bisogno di pigliare lo scanner da una parte, la stampata dall'altra, tutto fa, tutto fanno. Ma anche la mia fa tutto così, eh. Anche senza, lo puoi stampare con il computer senza computer. E c'è anche, faccio anche il fax la mia, capito? E fa tutto, ti dico che stampava bene, veramente bene, però non mi funziona più. Per quello che dice che da parecchio che era ferma, allora si sono rotulati e certe volte non si riesce più a stampare niente, non mi funziona, per cui sono costretto a buttarla, a prendere un'altra più moderna e nuova, capito? Eia, volevo vedere se c'era l'ascolto Natalino. Attenzione Natalino, sei all'ascolto? Niente. Non c'è nessuno ancora. È un po' presto, dai. Chi fa la pennichella ancora non si è svegliato. Va bene, va bene. Comunque sono tutti aperti i negozi. Eurospin è aperto. Tutti i negozi, anche quelli di elettronica. Oyoshan non ne parliamo. Solo i pubblici uffici hanno chiuso, capito? Solo i pubblici uffici. Le poste, le banche, però per il resto è quasi tutto aperto. Per non dire tutto a me. Facoltativa, ormai le feste stanno andando e scomparendo, penso. Non dico io, uno che lavora lì nei supermercati tutto il giorno, tutta la settimana lavorando, deve lavorare anche la domenica, non lo so, nei giorni festivi. Oggi è facoltativa, per cui hanno aperto, capito? C'è quello che apre, c'è quello che chiude, però fa. Dice che non ci sono soldi, ma mi sembra che i soldi escono fuori, come? I supermercati sono sempre pieni, e ci si lamentano, non abbiamo soldi. Vabbè, ma c'è gente che al supermercato non può andare. Quelli che vedi al supermercato tutti comprando vuol dire che qualche soldo ce l'hanno. E se i più poveracci non a malapena ci vanno al supermercato. Ma comunque la gente si indebita, anche per Natale, cosa credi? Che non facciano debiti? Molti, pur di fare cenoni, feste in grande per Natale e per Capodanno, si metteranno un bel di debiti. Ce ne sono parecchi che fanno, mettono i debiti proprio per fare questo effetto del genere. Ce ne sono parecchi, ma non saranno. Io non fare cose del genere. Se me lo posso permettere, va bene, ma se no, assolutamente, no. A mettermi i debiti per andare, Però ci sono quelle persone che lo fanno, come quelli che vanno in Italy così, all'estero, e fanno la finanziaria, si prendono un po' di soldi e si fanno questi viaggi del genere, capito? Se ce ne ho ci vado, se no, perché noi andavamo tutti gli anni fuori, siamo andati a Portogallo, siamo andati in Spagna, siamo andati in Francia, siamo andati parecchi posti, capito? Per cui prima andavamo, ma adesso siccome mia moglie non può camminare, allora no, non stiamo uscendo a nessun posto. Ma se no, prima noi abbiamo girato, dappertutto andavamo, anche in Germania siamo andati. Eia, è bello vedere altri posti, altre città. Eia. Bene, io adesso, mi stendo un attimo, aspetto che se sia l'ora giusta qualcuno entrerà al baracchino, no? Ho chiamato a Natalino, ma non c'è nessuno ancora, è troppo presto, dai. Ok, Gio Maria. Lucitina, ce l'abbiamo fatta, però ci siamo a posto, dai. Ok. mi faccio un piccolo, mi stendo un po', dai, mi riposo un po', e poi appena entra qualcuno al baracchino ci facciamo una chiacchierata sul 10. Ok, dai, ci sentiamo Gian Marì, a dopo, o a quando capita, dai. Ok, ma d'accordo, vai pure. Io sono svegliato verso le 4, così, e ho acceso, e mi stavo girando al computer un po' così, guardando, e finché non ho sentito la Luca, tutto qua. Vabbè, ti ringrazio per la chiacchierata, salutore ancora a Liu, e grazie alla piccola, che se breve fa sempre piacere, Marco. Buon proseguimento di serata, ci sentiamo, ciao. Ciao Gian Marì, dai, ci sentiamo alle prossime. Già lo sai che quando posso entro a salutare. Ok. Buona serata, buon proseguimento di serata, quando entreranno gli altri, già ti farai una chiacchierata anche tu. Ok? Ciao Gian Marì, ciao, una buona serata. Grazie altrettanto, ciao.